Stati Uniti al voto, il nostro racconto tra sondaggi, grandi politologi, strateghi democratici e repubblicani e, perché no, una birra a Oklahoma City. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. President Trump and his Democratic Party challenger Joe Biden are visiting the key states to try to target undecided voters ahead of tomorrow's presidential election. In many respects, this is one of the most important elections in modern history. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Sono le 16.09 in questo esatto istante. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano vi racconteremo gli Stati Uniti che si apprestano a votare. E lo faremo naturalmente con tutta la squadra di Nessun Luogo: Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia Valeria Bernardi. I commenti al 349-238-6666, così come le domande via WhatsApp e via SMS, i social Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. In questo racconto preelettorale, diciamo, di Nessun Luogo Lontano, vi proporremo le ultimissime analisi, ma anche sensazioni, di testa ma anche di pancia, di strateghi democratici e repubblicani, l'opinione di un grandissimo politologo, Charles Kupchan, e poi vi proporremo un viaggio, forse un po' irrituale, ma le elezioni statunitensi, come quasi tutte le elezioni del mondo, sono fatte anche di queste, magari di ritrovi al pub, dove si può naturalmente, con mascherina, e vi porteremo perciò a Oklahoma City, baluardo repubblicano, e per scoprire dietro e davanti al bancone cosa stanno sorseggiando nelle ore precedenti al voto e soprattutto chi sperano che vincerà domani. Questo è il tema di quest'oggi, 349-238-6666, intanto velocemente andiamo a sfogliare i nostri dossier internazionali. Il primo ha a che fare con il sanguinoso attacco avvenuto all'Università di Giurisprudenza di Kabul di ieri, 22 studenti morti. È arrivata nella tarda serata di ieri la rivendicazione non da parte talebana ma da parte dell'ISIS, dello Stato Islamico, che sapete è una presenza ancora molto molto corposa in Afghanistan e spesso si è macchiato negli ultimi anni e mesi anche di attentati molto sanguinari come questo. E questa era una precisazione doverosa perché ieri, mentre eravamo in onda ancora, non vi era stata alcuna rivendicazione e avevamo sussurrato che poteva essere un attacco talebano. Così non è stato, almeno a leggere sui canali Telegram, sui media dello Stato Islamico, appunto, questa rivendicazione. E poi diamo conto a alcuni ascoltatori che chiedono molto spesso della situazione dei 18 marittimi in Libia. Questa mattina, proprio ai microfoni di questa radio, la viceministra degli esteri Marina Sereni ha dichiarato che il governo si sta muovendo con i libici, ma soprattutto con quei paesi come Emirati Arabi e Russia, che hanno con le forze della Cirenaica un rapporto più stretto. Ha detto: dobbiamo lavorare per riportare a casa questi concittadini che sono in buone condizioni, ma stiamo parlando di una situazione delicata e complessa per la quale serve anche molta riservatezza. Ricordiamo che i 18 marittimi sono stati sequestrati assieme ai due pescherecci ormai 2 mesi fa dalla Guardia Costiera che fa capo al governo di Tobruk e l'LNA del generale Khalifa Haftar, e secondo le ultime informazioni sono detenuti, ripeto, in buone condizioni a Bengasi. Noi ogni tanto torniamo su questa vicenda, ma data la scarsità di notizie e data anche la delicatezza del dossier, speriamo di poterne parlare in maniera molto più aperta e molto più accurata una volta che la situazione si sarà risolta, perché in questo momento la diplomazia italiana e l'intelligence, e in questo abbiamo sempre ricordato l'enorme efficienza dei nostri uomini, stanno lavorando sotto traccia proprio per cercare di riportarli a casa. È quindi giusto tenere desta l'attenzione, ma non di più. A proposito di terrorismo, proprio quest'oggi Al-Qaeda nel Maghreb Islamico, che è un'altra formazione storica jihadista del Sahel, ha giurato vendetta contro la Francia e il governo francese ha risposto rendendo noto che più di 50 terroristi legati proprio al gruppo sono stati uccisi in Mali. L'operazione in realtà è stata lanciata la scorsa settimana. Il ministro della difesa francese Florence Parly ha dichiarato: si è trattato di un'importante operazione compiuta lo scorso 30 ottobre dalla forza della missione Barkhane. Oltre a neutralizzare 50 jihadisti sono state confiscate armi, materiale e sono stati catturati 4 terroristi. Ricordiamo che Parigi è impegnata nel Sahel in supporto dei paesi del cosiddetto G5 con un contingente di 5.000 uomini e, come immaginate, adesso anche l'allerta per gli uomini francesi in territorio africano è massima dopo quello che è accaduto a Parigi. A Nizza, scusate. Questi nostri velocissimi dossier internazionali perché dobbiamo darvi conto anche naturalmente di quello che è accaduto a Vienna e allora è lì che vi porto. Avete sentito dal GR il bilancio di quell'attacco che attorno alle 20 ha sconvolto il cuore di Vienna e di 4 morti, tra cui anche l'attentatore, 22 feriti, lo ha dichiarato il ministro dell'interno tedesco in una conferenza stampa che si è da poco tenuta a Vienna. Resta il mistero su come si sia mosso l'attentatore o gli attentatori. All'inizio circolava la notizia insistente che 4 uomini di un comando fossero in fuga, ma al momento non ci sono notizie confermate, così come sarebbe stata smentita che la sinagoga del centro di Vienna era il target di questo attentatore. Un giovane che peraltro era già finito in carcere, 22 mesi, era stato condannato perché aveva provato ad andare in Siria per arruolarsi nell'ISIS, origine albanese, genitori della Macedonia del Nord. Ha parlato anche il suo ex avvocato, ha detto veniva da una famiglia normale, si tratta di un giovane che è finito in un giro di amicizie sbagliate, lo ha raccontato alle agenzie di stampa proprio l'avvocato. Se non avesse frequentato la moschea e avesse fatto per esempio pugilato, sarebbe diventato un pugile, non avrei mai ritenuto possibile che commettesse un attentato, ma così è stato ed evidentemente anche l'Austria si interroga sulle falle dei loro sistemi di intelligence e di sicurezza. Proviamo a fare il punto e lo facciamo con Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, esperto di terrorismo. Claudio, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno Giampaolo e a tutti gli amici di Radio 24. Claudio, ho analizzato, certo non con la tua esperienza, la tua perizia, i video che circolavano e soprattutto le immagini dell'assalitore con un abbigliamento di colore bianco, con una borsetta a tracolla, non sembra particolarmente avvezzo all'uso delle armi, sembra sparare un po' a casaccio. Cosa ci dicono queste immagini, cosa ci dice sul profilo proprio dell'attentatore? Ah, qui andrò in controtendenza rispetto a molti commenti che ho sentito sull'attacco di Vienna, sposando il commento che hai fatto tu in apertura. Il commento viaggia parallelamente all'equiparazione dell'attacco di Vienna agli attacchi di Parigi, in fattispecie quello al Bataclan. Su Vienna parliamo sì di attacco strutturato e organizzato, col beneficio del dubbio sulla condotta del singolo terrorista o del comando, ma comunque un attacco improvvisato con una limitata capacità operativa e con un insufficiente livello di addestramento all'utilizzo delle armi e dello sfruttamento del campo di battaglia urbano. Come dicevi tu, basta guardare il video in cui compare l'attentatore per rendersi conto del suo livello di preparazione, non imbraccia l'arma in posizione di tiro operativo. E spara, come detto, sì, a casaccio. Sì. E poi anche il numero delle vittime. 5 vittime a Vienna, a Parigi furono 130, un numero incredibilmente basso rispetto alle armi utilizzate e degli obiettivi colpiti. Si dice 6, che sarebbe ancora più basso rispetto all'ipotesi di un comando suicida. Sì. Ma in questo caso la volontà del terrorismo sa superare i limiti della capacità. La voce che state ascoltando è quella di Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, esperto di terrorismo. Ti prego sulla prossima domanda di rispondermi quasi a slogan, forse non sarà difficile. Quanto è alta l'allerta in Europa a questo punto, dopo i fatti di Nizza, dopo i fatti di Vienna? Peraltro qualche ora fa, nell'undicesimo arrondissement a Parigi, per la fermata di Père Lachaise, un uomo si aggirava con un macete, è scattato evidentemente l'allarme. Pare fosse uno squilibrato, si è arreso senza opporre resistenza, ma evidentemente le forze francesi erano sulla massima allerta. In Europa come valutare il grado di allerta? Il grado di allerta è alto, non tanto per la capacità operativa, per la capacità di condurre attacchi strutturati, quanto proprio per la capacità di spingere soggetti che non sono collegati allo Stato islamico, al terrorismo in generale, a colpire in nome di quel terrorismo. Gli attacchi emulativi, improvvisati, fanno parte della grande strategia dello Stato islamico e sono attacchi fuori controllo. È difficilissimi, anche evidentemente, da monitorare e da prevenire. Grazie mille Claudio Bertolotti, Start Insight, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro Claudio. Grazie a voi, buona giornata. 349-238-6666, ci sono un po' di messaggi su questo capitolo, ma voglio andare velocemente a proporvi che cosa. Beh, sarà un viaggio che tocca il sacro e il profano, naturalmente è una metafora, perché avremo avventori di un piccolo pub a Oklahoma City, ma avremo anche il grandissimo politologo Charles Kupchan. Per capire che cosa? Beh, se vince Biden cosa accade? Se vince Donald Trump cosa accade? Iniziamo questo viaggio tra pensieri, illazioni e aspirazioni per il voto statunitense da qui a poche ore. Andiamo negli Stati Uniti. Intanto l'ANSA batte l'agenzia, per cui la riprende in realtà una notizia scritta dal New York Times. È stata mobilitata la Guardia Nazionale in vari stati statunitensi, appunto, in allerta contro eventuali violenze e disordini. Il governatore del Massachusetts, Charlie Baker, ha già mobilitato 1000 uomini. La governatrice dell'Oregon, Kate Brown, ha dichiarato lo stato di emergenza nell'area di Portland, area di grandissime proteste dopo l'uccisione dell'afroamericano George Floyd. Naturalmente questo è lo scenario peggiore, quello dei disordini, e speriamo naturalmente di non assistervi da qui a poche ore. Partiamo con questo nostro viaggio, lo facciamo con la voce di Woodrow Johnston, l'avete già sentito qui ai nostri microfoni, stratega repubblicano, ci parla da Las Vegas in Nevada. Oggi si vota, domani si dovrebbero avere i primi risultati. Quali sono le possibilità per Donald Trump? Sentite. So here's what I'll tell you. I'm very optimistic about President Trump's chances tomorrow. Sono molto ottimista riguardo alle possibilità di Donald Trump domani. Come avete visto in Pennsylvania e Florida, sembra che i democratici stiano dando prova di una prestazione peggiore del solito e credo avremo una grande giornata di voto. Anche perché vedo che i repubblicani si stanno muovendo. L'elettore repubblicano è un elettore tradizionalista che ama recarsi alle urne secondo tradizione il primo martedì di novembre. La voce di Woodrow Johnston, stratega repubblicano. La società è McShane LLC, Las Vegas, Nevada, cura la campagna repubblicana in Nevada. Il candidato repubblicano alla Camera dei rappresentanti, Jim Marchant. Che cosa si aspetta il giovane stratega dopo un'eventuale vittoria di Trump e con un secondo mandato di Trump stesso? Sentite. Expect Democrats to react violently. Mi aspetto una reazione violenta dei democratici. Come avete visto, in molte città ci sono stati incendi e vandalismi e gli esercizi commerciali hanno chiuso le serrande come reazione anticipata alla violenta insurrezione della sinistra. Mi aspetto un positivo rimbalzo dell'economia sia in America che a livello globale. Vedremo un avanzamento dell'agenda America First anche nella politica estera. E anche se questo aspetto potrebbe non sembrare così positivo in Italia, credo che alla fine in generale vedremo molto più benessere. Mentre vi faccio ascoltare la voce, la prima delle tante che sentirete in questa puntata di Nessun Luogo, di Woodrow Johnston, stratega repubblicano, Las Vegas, Nevada, i vostri messaggi al 349-238-6666, uno su tutti, sembra che l'America vada in guerra più che a votare, così scrive Paride. Qualcuno contesta il fatto che abbiamo raggiunto un pub a Oklahoma City e scrive: in Oklahoma ci sono bar e non pubs, come li hai chiamati tu, due concetti di locali molto differenti. E fra poco le faremo sentire la voce di Sean Cummings, che è proprietario di Sean Cummings Pub. Però non perderei tempo su questa diatriba, francamente. Ci sono altre voci ben più importanti che vorrei farvi sentire. Quella di Johnston, innanzitutto, al quale Antonio Tale ha chiesto qual è il peggior errore commesso da Biden in questa campagna elettorale e quali gli errori di Kamala Harris. Perché a questo punto è venuto il momento di valutare anche la campagna dei due presidenti e vicepresidenti in attesa, speriamo tra poche ore, dei risultati. Sentite Johnston. The worst mistake that Joe Biden made during the campaign was actually made during the primary. Il peggiore errore commesso da Biden nella sua campagna elettorale è stato quando, durante le primarie, ha detto che avrebbe messo al bando la tecnica del fracking nell'estrazione petrolifera, che è fondamentale per l'economia americana. Credo che i lavoratori della Pennsylvania non siano d'accordo con il blocco al fracking, così come non sono d'accordo i proprietari terrieri della regione della Rust Belt. Insomma, credo che il momento in cui Biden ha perso la campagna sia stato proprio il momento in cui se n'è uscito con questa storia del fracking. It's when he came out against fracking. I actually think Kamala Harris was a good strategic choice for Joe Biden to pick. Credo che scegliere Kamala Harris sia stata una buona scelta strategica per Joe Biden. In quel momento Biden veniva percepito come un candidato contrario alle forze dell'ordine, così ha scelto un ex procuratore come suo vicepresidente. Ma penso che se i repubblicani riescono a prendere il 25% del voto nero, i democratici non vinceranno mai più la presidenza, quindi Biden doveva assicurarsi che questo non succedesse e Kamala Harris avrebbe potuto aiutarlo anche su questo versante. Detto ciò, alla fine è il primo della lista che conta, i vice non tendono a fare una grande differenza. Sarah Palin nel 2017 fu positiva per John McCain, ma non abbastanza per farlo vincere. But in the end it was not enough for him to win. E così la voce di Woodrow Johnson, stratega repubblicano, fa un tuffo anche nel passato per valutare e soppesare il peso politico, appunto, dei vice nella corsa presidenziale. In realtà per molti la scelta di Kamala Harris è stata assolutamente un'ottima e lungimirante scelta. I detrattori dicono in realtà sarà lei, in caso di vittoria democratica da qui a poco, a poter sostituire Joe Biden, senza evidentemente pensare al peggio, ma data l'anziana età e invece la vivacità e la presenza di Kamala Harris, in molti pensano che potrebbe essere un ottimo presidente democratico. Allora, vi ho fatto sentire la parte repubblicana, andiamo dall'altra parte, quella democratica, con la voce di Jay Toscano. Ha lavorato alle campagne di 8 rappresentanti, 3 senatori e un governatore, tutti democratici. Poi ha fondato, come spesso accade negli Stati Uniti, la sua società di consulenza politica 76 Words. A lui abbiamo chiesto un punto di forza e un punto debole nella campagna elettorale di Joe Biden e dei democratici. Sentite. Credo che la campagna elettorale di Biden abbia fatto un eccellente lavoro nel presentare una visione alternativa a quella di Trump. Siamo riusciti a fornire un'idea diversa di paese, un'idea diversa del popolo statunitense e soprattutto abbiamo fornito una valida alternativa su come affrontare le sfide che stiamo vivendo. Biden è stato capace di far passare questo messaggio fin dall'inizio della sua campagna elettorale. Da stratega politico posso dire che vince chi ha solidi contenuti ed è capace di trasmetterli fin dall'inizio della corsa presidenziale. E in questo Biden è stato bravo. Rispetto ai punti deboli, credo che non abbiamo fatto abbastanza per coinvolgere l'elettorato di minoranza, in particolar modo gli afroamericani e latinoamericani, specialmente nella fase iniziale della campagna elettorale. L'impatto negativo di questo errore è particolarmente evidente in stati chiave come la Florida, dove Trump è molto popolare nella comunità latinoamericana, specialmente tra gli uomini. Avremmo dovuto rivolgerci a questi elettori prima, non solo nelle fasi finali chiedendone il voto, ma coinvolgendoli nel partito e nella campagna elettorale fin dall'inizio. Avremmo dovuto ascoltare con più attenzione le loro istanze e i loro interessi, valorizzando maggiormente l'eterogeneità del nostro elettorato. Dopo le parole dello stratega repubblicano, quelle dello stratega democratico, Jay Toscano. Un altro particolare degno di nota, oltre alla mancanza di attenzione o quantomeno tardiva rispetto alla comunità afroamericana da parte dei democratici, che forse troppo tardi si sono accorti che dovevano spingere su quel aspetto, Fra poco vi farò sentire la voce di un altro stratega Dem, Dante Atkins, il quale sottolinea anche un altro aspetto. Il principale punto di forza di Biden è stato di non aver fatto particolari errori e di essersi presentato come un candidato solido, ma ha peccato su un aspetto che forse per noi è un po' lontano nel fare politica, nel fare campagna elettorale, cioè il porta a porta, andare a bussare, andare a suonare campanello dopo campanello, porta dopo porta, quartiere dopo quartiere, cosa che invece i repubblicani hanno fatto in maniera, per adesso, possiamo ipotizzare, molto molto efficace. Allora andiamo alle parole di Dante Atkins, stratega politico Washington DC, una lunga esperienza perché ha seguito campagne politiche a tutti i livelli, da quello cittadino, comunale a quello nazionale, soprattutto in California. È stato ex addetto stampa del senatore democratico John Garamendi in California e anche egli ha fondato la sua società di consulenza a Washington. La domanda per lui, beh, è molto semplice. Analizzando i dati, e soprattutto quelli forniti dal Center for Responsive Politics, questa campagna elettorale statunitense è stata la più costosa di sempre, con una spesa complessiva, pensate, tra elezioni locali, statali, Senato, Camera, eccetera, di 14 miliardi di dollari, il doppio rispetto alla campagna del 2016. Ma negli Stati Uniti vince chi spende di più? Sentite. Usually, but not always. Generalmente sì, ma non sempre. Hillary Clinton nel 2016 spese molto di più di Donald Trump e sì, alla fine ha ricevuto più voti, ma non nei posti giusti. Questo a causa del sistema elettorale maggioritario degli Stati Uniti. I soldi sicuramente aiutano, ma non sono il fattore determinante. Inoltre, non si tratta solo degli investimenti fatti nella corsa alla Casa Bianca, ma anche dei soldi spesi nelle campagne elettorali per il Senato, per la Camera dei Rappresentanti e a livello statale. In quest'ultimo aspetto, i repubblicani sono stati tradizionalmente più bravi dei democratici. Queste elezioni, diciamo così, di minore importanza, sono in realtà essenziali. Negli Stati Uniti, infatti, ogni 10 anni vengono cambiati i confini dei collegi elettorali, non solo per i rappresentanti della Camera a livello federale, ma anche a livello statale. I parlamenti statali sono quelli deputati a ridisegnare i collegi elettorali attraverso il fenomeno conosciuto come gerrymandering. Quindi controllare le assemblee statali è molto importante. I democratici ultimamente si stanno impegnando molto su questo fronte. Una percentuale sempre più alta delle donazioni è stata dedicata proprio alle campagne elettorali minori, perché abbiamo finalmente capito l'importanza che ricoprono, mentre i repubblicani lo hanno compreso già da molto tempo. Stiamo finalmente rimontando. È quindi inevitabile che questo processo renda la campagna elettorale più costosa, ma così facendo diventa anche più competitiva. Questa è la voce, l'opinione, la visione di Dante Atkins, stratega politico Washington DC, campo naturalmente democratico come avete sentito, in realtà però in molti swing state, a sentire gli ultimissimi sondaggi, il divario tra Biden e Trump si sarebbe ridotto. Facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire le borse e poi proseguiamo il nostro viaggio in lungo e largo per gli Stati Uniti, tra grandi politologi e piccoli pub, per prepararci al grande Election Day. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, prosegue il nostro viaggio in lungo e largo per gli Stati Uniti con le voci più disparate, quelle degli strateghi democratici, quelle degli strateghi repubblicani, poi il grandissimo Charles Kupchan e poi una capatina per una birretta, un po' il rituale forse, in un pub di Oklahoma City, lo Sean Cummings, per avere un po' di polso, un po' di pancia direbbe qualcuno degli elettori americani. Parlavamo di soldi, parlavamo di quanto a volte... non sempre spendere tanto per una campagna equivalga in maniera inequivocabile a garantirsi la presidenza. Peraltro intanto la CNN ma anche le agenzie stanno battendo la notizia che stanno costruendo, o sono state costruite anzi, perdonatemi, delle reti di protezione attorno alla Casa Bianca, proprio in vista evidentemente di eventuali potenziali disordini. nonché anche alcuni nei quartieri vicino alla Casa Bianca, alcuni privati stanno coprendo le vetrine dei negozi, si sta innalzando il livello di sicurezza anche di molti esercizi commerciali. Torniamo alla voce di Dante Atkins, stratega politico democratico. Torniamo a parlare di soldi, perché il comitato Biden ha raccolto $1 miliardo in donazioni. La maggior parte di questi soldi arrivano da piccoli donatori oppure provengono da gruppi di interessi, quindi più il singolo elettore democratico o le grandi lobby. Ascoltate la risposta perché è molto molto interessante. Molti donatori benestanti sono stati capaci di contribuire con diverse centinaia di migliaia di dollari. Questo grazie anche alle leggi permissive in materia che ci sono negli Stati Uniti. Detto questo, la maggioranza dei finanziamenti alla campagna elettorale di Biden è arrivata da piccoli donatori che hanno fatto tutto quello che era in loro potere per mettere fine alla presidenza di Donald Trump. Si è affermata un'importante consuetudine nell'elettorato democratico. Ogni volta che un esponente repubblicano dice qualcosa di razzista, sessista, violento o offensivo, il singolo elettore democratico manda $5 a Joe Biden o ai candidati Dem al Senato. Questa procedura è stata resa possibile grazie a strumenti digital sviluppati dai democratici per facilitare il contributo online. Tra noi democratici c'è quindi una forte cultura delle piccole donazioni, molto più strutturata rispetto a quella repubblicana. Questo è il motivo per cui Joe Biden e i candidati democratici in tutto il paese hanno un significativo vantaggio nel fundraising. Sicuramente il donatore che contribuisce con $100,000 vuole qualcosa in cambio, ma una persona che invece contribuisce con 5, 10, $100 non ha nessun doppio fine. Si tratta di persone genuinamente motivate ad aiutare una causa, nel loro piccolo, perché sono arrabbiate, spaventate e vogliono un cambiamento. Quindi, alla fine, le due componenti coesistono. Da un lato i donatori benestanti e dall'altro una sempre più importante fetta di piccoli donatori. Ed entrambi spingono verso la stessa direzione. E così con Dante Atkins abbiamo provato a analizzare, a radiografare anche l'impegno economico di quest'ultima campagna elettorale, la più costosa della storia degli Stati Uniti. Il tutto aspettando i risultati. Un ascoltatore: Trump annuncerà la sua vittoria alle ore 4 del mattino, basterà un tweet, gli fai con un'agenzia che leggo con voi, solo il 17% degli americani attende il vincitore stanotte. Lo afferma un sondaggio di Politico e Morning Consult. Il 18% crede di poter sapere il nome del vincitore, Trump o Biden, domani. Il 30% entro una settimana e un 3% ritiene che passerà addirittura un mese. I più ottimisti sono proprio i repubblicani, tra i quali il 23% pensa che entro questa notte ci sarà un vincitore. 349-238-6666 per voi. E noi adesso apriamo un capitolo, forse quello più illustre di questo viaggio di Nessun Luogo Lontano quest'oggi. Vi faccio sentire la voce di Charles Kupchan, è professore di relazioni internazionali alla Georgetown University, senior fellow del Council on Foreign Relations, firma The New York Times, è stato consigliere per la politica estera di Bill Clinton. Il suo ultimo libro, Isolationism, A History of America's Effort to Shield Itself from the World. Cosa accadrebbe nel caso di vittoria di Trump e di Biden? Sentite il grande politologo come risponde. If Mr. Trump wins, I fear for the future of democracy in the United States. Se Trump dovesse vincere, avrei paura per la tenuta della democrazia all'interno del paese e quindi avrei paura che le conseguenze negative possano ripercuotersi nel resto del mondo. Sotto molti punti di vista, queste sono le elezioni più importanti della storia moderna. Se dovesse vincere Biden, credo che arriverebbe un messaggio positivo anche al resto del mondo. Sarebbe un rifiuto verso le tendenze illiberali di Donald Trump, la sua incompetenza, la sua tendenza a forzare i confini della democrazia liberale. Ad ogni modo, Biden si ritroverebbe a capo di un paese devastato dalla pandemia, molto polarizzato, con un'economia zoppicante. Ma penso sia una persona integra che riuscirebbe a restaurare i valori perduti all'interno della stanza ovale. Credo possa essere la persona giusta per i tempi attuali. And in that respect, I think he is the right person for the times. State ascoltando la voce di Charles Kupchan, Georgetown University Council on Foreign Relations, editorialista del New York Times. Stiamo provando a mettere il grand'angolo, ma soprattutto a sfregare la sfera di cristallo. E anche dal nostro punto di vista, così rispondo a un ascoltatore che in maniera forse un po' provocatoria scrive: ma che ci frega noi dell'attesa? Guardi, a tutto il mondo frega di questi minuti, di queste ore di attesa. Ne sia a prova un'indiscrezione che arriva dalla stampa brasiliana, per cui Jair Bolsonaro avrebbe tentato di contattare Joe Biden, evidentemente preparandosi a un'eventuale vittoria del candidato democratico, e lo staff di Biden avrebbe rifiutato contatti. Poi lo stesso Bolsonaro ha smentito questa ipotesi. Tutto il mondo sta guardando quello che vi stiamo raccontando in questi minuti e che vi racconterà Radio 24 con i suoi speciali da qui fino a domani, gentile ascoltatore. E soprattutto con grande attenzione lo sta osservando Charles Kupchan. Cosa cambierà? Dicevo, guardiamo anche il nostro punto di vista, l'Italia e l'Europa. Cosa cambierà per gli alleati europei se vincerà Trump, e cosa succederà se vincerà Biden? Sentite ancora Charles Kupchan. If President Trump is re-elected, I expect him to double down on his America First brand of foreign policy. Se Trump dovesse essere rieletto, mi aspetto che rincari la dose per quanto riguarda il suo approccio dell'America First, e mi aspetto che i rapporti con i paesi tradizionalmente alleati si erodano. Non mi aspetto che Trump lasci la NATO o che formalmente si svincoli dalle relazioni con gli alleati in Europa o in Asia, ma che prosegua con il suo disegno del ritirare le truppe dal Medio Oriente. To do more. I do worry that the quality of the relationship between the United States and just about Ho paura che il rapporto tra gli Stati Uniti e molti paesi nel mondo, salvo poche eccezioni, vada verso il deterioramento, e credo che l'Europa comincerà a volgere il suo sguardo altrove, verso la Cina e la Russia. Toward Russia and China. If Mr. Biden wins, I think you will see a continued retrenchment. Se dovesse vincere Biden, credo che ridimensionerebbe la presenza americana nel Medio Oriente, in Afghanistan, Iraq e Siria, ma credo che il ruolo di stabilizzatore politico degli Stati Uniti verrebbe riconfermato in Europa e in Asia. Credo che farebbe uno sforzo per dare nuova linfa vitale ad alleanze e tradizioni democratiche. Gli Stati Uniti potrebbero tornare ad essere difensori della democrazia e dei valori liberali, e credo che la popolarità che in questo periodo hanno guadagnato alcuni stati europei potrebbe risentirne. Credo che rinsalderebbe il rapporto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rivedrebbe gli accordi sul clima e riaprirebbe i negoziati con l'Iran. Insomma, mi aspetto che gli Stati Uniti tornino a fare gioco di squadra. Infine, mi aspetto che dia nuova vita al patto atlantico. Ci sono poche persone negli Stati Uniti che ci credono quanto lui, quindi mi aspetto che agisca in questa direzione e che stringa relazioni salde con le democrazie liberali in Asia e nel mondo, in modo da arginare Cina e Russia e da rinforzare il blocco democratico nel mondo. Remain a key block in global affairs. E mentre ascoltate la voce di Charles Kupchan, uno dei più autorevoli analisti di relazioni internazionali, che ci sta raccontando cosa cambierà nel caso di vittoria di Trump o nel caso di vittoria di Biden, Melania Trump ha votato in Florida. La First Lady ha votato di prima mattina a West Palm Beach, così battono le agenzie, dove si trova la residenza della coppia presidenziale, nel resort di Mar-a-Lago. Invece il presidente Donald Trump, come forse ricorderete, ha votato la settimana scorsa sempre nella stessa località, West Palm Beach. 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande. Economia zoppicante, cosa state dicendo? Lo ha detto Charles Kupchan, gentile ascoltatore. Tornerò tra pochissimo anche sui vostri messaggi. Prima andiamo però sulle strade italiane. Nessun luogo è lontano. Ancora Ancora buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. I vostri messaggi al 349-238-6666 che punteggiano il viaggio che vi stiamo proponendo. C'è qualcuno che scrive: ma perché non fate sentire voci di repubblicani? È proprio quello che abbiamo fatto in apertura di questa trasmissione. Gentile ascoltatore, Woodrow Johnson è uno stratega repubblicano che ha curato peraltro la campagna del candidato repubblicano alla Camera Jim Marchant in Nevada. Su Charles Kupchan, sì, è stato il consulente di Bill Clinton, ma è considerato da tutti, senza tema di smentita, uno dei grandi più grandi politologi, esperto di relazioni internazionali del mondo. Poi qualcuno ci irride dicendo: ma cosa state dicendo? Ancora questo livore evidentemente incomprensibile dal mio punto di vista. Hanno raccolti i democratici 1 miliardo a suon di un dollaro. Non ha detto questo lo stratega repubblicano, ha detto che molte donazioni, la maggior parte, erano piccole, fatte di pochi dollari, ma c'erano anche grosse donazioni fatte di migliaia, decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di dollari. Se vi siete persi qualche passaggio, trovate questa puntata naturalmente sui podcast dal sito di Radio 24. Un aspetto importantissimo, le relazioni con la Cina. Che vinca Biden o Trump, è il primo concorrente degli Stati Uniti. Se vincesse Biden, sarebbe davvero più morbido di Trump con Pechino? Sentite Charles Kupchan. Should Mr. Biden win the election, I think you'll continue to see a tough relationship between the United States and China, and that's because se Biden dovesse vincere, credo che le relazioni con la Cina resteranno difficili, perché gli attriti dovuti agli accordi sul commercio, ai diritti umani, eccetera, resteranno. Credo però che la politica americana cambierebbe sotto diversi aspetti. Primo, mentre Trump è molto radicale nella sua guerra commerciale, credo che Biden tenterebbe di creare una coalizione tra Stati Uniti, Messico, Canada, Europa, Corea del Sud e Giappone, per mettere un po' alle strette la Cina. In secondo luogo, credo che vedremo una vera politica sulla Cina. Fino ad ora non si è trattato di un piano organico, ma di una serie di tweet sulla Cina. Terzo, credo che con Biden ci sarebbe un ritorno del dialogo strategico con la Cina, quel dialogo che ora è del tutto assente. Le relazioni degli Stati Uniti con la Cina e dell'Europa con la Cina sono temi fondamentali. L'Europa avrà una relazione sempre più forte con la Cina a causa della Via della Seta. Non credo che sia semplice rimodulare le relazioni con la Cina. Ci sarebbe molto lavoro da fare, ma credo che sarebbe uno dei punti dell'agenda di Biden. Credo anche che si dovrebbe davvero rinsaldare il rapporto con le democrazie liberali e con l'Unione Europea, in modo da creare un blocco contrapposto al populismo e ai valori illiberali. Solo allora lo sguardo di America ed Europa dovrebbe volgersi verso l'importante questione dei rapporti con la Cina. I think that turning US and European eyes toward China and figuring out how to stay on the same page will be an urgent priority. La voce di Charles Kupchan, Georgetown University, editorialista del New York Times, fra le altre cose. Adesso però sono le 16:50, 51 minuti in questo esatto istante. Se fossimo in Inghilterra andremo al pub, ma sai che ti dico, Valeria Bernardi? Andiamo a berci una birra a Oklahoma City, al Sean Cummings Pub. E così rispondiamo anche a quell'ascoltatore che polemicamente sosteneva che non esistono pub in Oklahoma. Lo Sean Cummings Pub è un pub irlandese, proprio a Oklahoma City. Il padrone si chiama Sean Cummings, di origine irlandese, e ha deciso di aprire un pub invece dei soliti bar. Sentite la sua voce. Vivo nella capitale di uno stato che si chiama Oklahoma, nel centro degli Stati Uniti. E l'Oklahoma è uno stato molto politicizzato. Eravamo noti per essere lo stato più rosso d'America, che significa lo stato più conservatore. Ma l'Oklahoma City in cui vivo oggi è una città più in bilico di quanto non fosse prima. Io ho votato in anticipo perché ho un po' di problemi ai polmoni e sapevo che il giorno delle elezioni sarebbe stato affollato. Al mio seggio oggi ci sarà molta gente che non usa la mascherina e volevo votare senza entrare in contatto con loro. Alla presidenza ho votato per Joe Biden, anche se in realtà non ho votato per Joe Biden, ma ho votato contro Trump. Voglio dire, mi piace Joe Biden. Penso che sia un tipo a posto, ma penso che sia troppo vecchio per il lavoro di presidente. 8 anni fa, o anche 4 anni fa, penso che sarebbe stato più in forma, ma adesso ha quasi 80 anni e non credo che capisca di cosa ha bisogno un 25enne americano. Ma sento di non avere altra scelta. Non ho votato contro Donald Trump tanto per ragioni economiche. Voglio dire, sono il proprietario di un pub. Capisco che l'economia abbia rallentato per colpa della pandemia e che ciò era inaspettato. Quello che non posso accettare è che in questo paese abbiamo scelto di non dare ascolto alla scienza. Voglio dire, tra il 35 e il 40% delle persone hanno scelto di ignorare la scienza. E questo non è qualcosa che succede da sé. Questa è proprio una scelta. Stanno scegliendo di ignorare gli scienziati, senza letteralmente alcuna spiegazione su quale miglioramento questo possa portare. Così parla Sean Cummings ai nostri microfoni, di là dal bancone, ma davanti ci sono alcuni avventori, anche in uno stanco e sonnolento pomeriggio preelettorale. Tra questi Kevin, professore di storia. Che cosa si aspetta? Sentite. Onestamente, quello che mi aspetto è una vittoria di Joe Biden con un vantaggio tra i 5 e gli 8 punti. Tutti i numeri che sto leggendo indicano che dovrebbe vincere facilmente e ci sono anche possibilità che il Senato passi dai repubblicani ai democratici. La questione centrale riguarda tutti i sotterfugi che sono già stati messi in opera per non conteggiare tutti i voti. Io ho votato per Biden. Abbiamo raggiunto il limite della strategia impiegata dal Partito Repubblicano. La politica di divisione, rabbia e odio per ragioni elettorali ha raggiunto il suo punto di non ritorno e penso che il popolo americano intero abbia finalmente visto i pericoli di questa politica. Lo stesso terreno che ha fatto venire allo scoperto il Ku Klux Klan intorno al 1920 è tornato attuale nel 2020. Trump non accetterà la sconfitta, non ha mai accettato nulla di negativo. È uno che è andato in bancarotta e dice di essere un miliardario. Ma ha bisogno del sostegno dell'intero Partito Repubblicano. E se la sconfitta sarà ampia, non credo che l'establishment degli stessi repubblicani lo appoggerà in una così eclatante infrazione della legge. E questa era la voce di Kevin, docente di storia, intervistato al Sean Cummings Pub, Oklahoma City. Naturalmente la domanda che tutti si fanno è quando arriveranno i risultati, quello è forse il vero punto di domanda. Un altro ascoltatore che dice: la voce di una persona che sostenga Trump, almeno una, l'abbiamo fatto a inizio trasmissione, l'abbiamo fatto nelle scorse puntate in nessun luogo, caro ascoltatore, radio24.it, tutte le puntate e i tanti strateghi repubblicani a cui abbiamo dato voce, abbiamo cercato in queste settimane di bilanciare i due punti di vista. A questo punto invece il punto di vista che mi arriva dalla regia è uno solo ed è inequivocabile. You're fired. Il tempo è scaduto, sono i titoli di coda. I ringraziamenti a tutta la squadra di Nessun Luogo, a voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.